Soldati in addestramento intorno alla capitale Giuba, tanto per ricordare che nel neonato Stato africano del Sud Sudan la guerra di liberazione dagli arabi è stata vinta, ma che il territorio della 54esima nazione d'Africa, grande due volte l'Italia, non è ancora pienamente sotto il controllo dell'autorità centrale. 30 anni di guerra civile hanno ridisegnato decine di volte i confini, causato ondate di profughi in cerca di rifugio all'interno del paese, ma anche in Kenya e Uganda e nella Repubblica del Congo. Negli ultimi mesi milioni di persone sono tornate nei villaggi d'origine, dove tutto è da ricostruire, dove non esistono mappe e documenti, ma solo la complessa memoria dei clan cui affidarsi. Confini violati lungo il fronte sud, dove il pericolo è rappresentato dagli sbandati dell'LRA, l'esercito di Dio che da 20 anni terrorizza i contadini della regione e che ora rallenta i ritorni. Ma è soprattutto nel nord che la situazione è critica, che si rinnova lo scontro frontale tra il nord di Khartoum e il Sud Sudan neonato. La regione di Abyei, uno dei settori più critici, un confine ancora da stabilizzare che mette di fronte direttamente gli eserciti. Il confine internazionale incrocia territori di pascolo ma anche zone di sfruttamento petrolifero, un mix esplosivo che ad agosto ha riportato all'attacco l'esercito del nord, ha causato la chiusura dei confini e una nuova ondata di profughi in fuga dalla guerra. Insomma, in Sud Sudan, a 100 giorni dalla nascita della 54esima nazione africana, il tempo dell'addio alle armi resta ancora molto lontano e i soldati continuano a marciare in questo loro grande e sfortunato paese.